Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, quarta giornata di ritorno, formazione come al solito al completo con Roberto Scaltritti in regia e Giorgio De Luca in redazione per questa nuova puntata di Palla Spicchi. Intanto con un mio certo disappunto, perché lo sapete che io tutto sommato tifo per Roma, siamo sotto, 23-10, un'ottima Milano in questo posticipo serale della quarta di ritorno al Palazzo dello Sport di Viale Tiziano, ora 23-12. Beh, hai visto mai che questa sconfitta nelle Final Eight ospitate al Forum non abbia fatto poi bene a Milano? Che comunque appunto è avanti 23-12 dopo uno splendido primo quarto chiuso sul 23-10. Ora è arrivato un canestro di Lawal e Roma che prova a rientrare. Cosa hanno detto invece le partite del pomeriggio? Beh, che Cantù è in crisi nera, perché dopo il KO nelle Final Eight proprio contro Roma, oggi Canturini che sono scivolati contro Brindisi. E nel Brindisi pallacanestro Cantù 69-65, e quindi Cantù, come sapete, in un campionato che dal punto di vista economico scricchiola non poco, è alla ricerca anche di un main sponsor per il campionato stesso. E poi invece si allunga un po' la classifica in testa, perché Varese e Sassari vincono, e oltre a Brindisi c'è anche il bel successo esterno di Reggio Emilia a Biella, tanto per rimanere in tema di squadre in difficoltà in cui i conti non tornano a proposito dei piemontesi. Questi i risultati della quarta giornata di ritorno: Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia 108-84, Cimbario Varese Saie 3 Bologna 78-61, Sidiga Savellino Vanoli Cremona 93-81, importante vittoria degli Irpini in la prima della gestione Pancotto, Angelico Biella Trenkwalder Reggio Emilia 65-72, Sutor Montegranaro Juve Caserta 97-76. Montegranaro prova a far pace con i tifosi dopo lo sciopero della squadra in settimana per gli stipendi che non sono arrivati ma che dovrebbero arrivare. E poi Enel Brindisi pallacanestro Cantù 69-65, Milano in vantaggio 25-12 quando mancano 8 minuti alla fine del secondo quarto a Roma. Roma nella sfida tradizionale tra le metropoli. E poi domani sera Scavolini Banca Marche Pesaro contro quel Montepaschi Siena che forte del quinto successo consecutivo in Coppa Italia, sta andando alla grande anche in Eurolega e non vuole certo fermarsi in campionato, per una classifica che vede Varese 32, Sassari 30 punti, Siena 26, Cantù e Roma 24, Milano 22, a 20 punti Venezia, Brindisi, Reggio Emilia, 16 Caserta, 14 punti per Bologna e Cremona, 12 Montegranaro, Avellino 10, chiudono Pesaro e Biella quota 8. Andrei subito a Roma dal nostro Fabrizio Fabbri per farci un po' raccontare questo inizio shock della sfida del palazzetto dello sport di Viale Tiziano. Fabrizio, che succede a questa Roma? Succede che Gigi D'Adom è in panchina ma non entrerà, e l'assenza del capitano ha praticamente polverizzato le energie di Roma. È come se l'anima della squadra fosse stata succhiata via dall'assenza del capitano. 1 su 18 nei primi 10 minuti però, per la squadra di Calvani, che adesso però va a segno e si riporta sotto la doppia cifra, perché va a segno Jordan Taylor per il 16-25, migliore in campo per Milano, indovinate un po', Fozzi, l'uomo che doveva essere tagliato, no, basket è anche questo. Hai proprio ragione Fabrizio, tutta la settimana che si dice che Fozzi dovrebbe o deve o dovrà tornare ad Atene maglia Panathinaikos, e invece proprio lui sta decidendo la sfida contro Roma in trasferta. Allora grazie intanto Fabrizio, torniamo nei prossimi collegamenti a Roma per seguire questa sfida, e intanto diamo anche un occhio a quello che è successo sugli altri campi. Andiamo ad esempio ad Avellino, dove la Sidigas torna al successo 93-81 sulla Vanoli Cremona e si distacca nuovamente sul fondo della classifica dalla coppia Pesaro-Biella. Carmelo Prestisimone, buonasera. Buonasera Dario, è esattamente così, perché Avellino respira, batte Cremona 93-81, non vinceva in casa da ben 3 mesi, era il 25 novembre contro Brindisi, guadagna 2 punti che le permettono adesso di essere penultima davanti a Biella. Campani che vengono trascinati da un sontuoso Richardson, 20 punti, 4 su 7 da 2, 3 su 5 da 3, ma bravi anche Spinelli e Lagovic, 14 e 12 punti che hanno spaccato la partita, e un solidissimo Ivanov sotto canestro che con Biliga non fa rimpiangere Lyndon Johnson che si è infortunato. Cremona è stata in partita per 35 minuti, trascinata da Luca Vitali, 17 punti per lui, poi si è spenta negli ultimi minuti sotto le triple di Avellino della Citygas, di Cesare Pancotto, che è qui con me, ospite, ed è naturalmente soddisfatto per il gioco espresso dalla tua squadra, coach. Siamo soddisfatti per la qualità del gioco espresso, per la caratterialità che abbiamo saputo mettere nei momenti chiave della partita e per la difesa che ci ha permesso di fare quel break negli ultimi 5 minuti che hanno fatto una linea di demarcazione importante e che ci hanno permesso il successo. Ecco coach, c'è un'area nuova qui a Avellino, soprattutto dopo questa partita, l'avrai portata tu, l'avranno portata anche i nuovi acquisti, Lagovic che ha gestito saggiamente la squadra. Ora sicuramente c'è più fiducia nell'ambiente, anche il pubblico è sembrato molto più vicino. Ma io sono il manovratore, gli attori sono i giocatori naturalmente, ecco, vivo di entusiasmo, vivo di energia, quindi questa è la cosa che ho cercato di portare essendo arrivato appunto da pochissimo, ma devo dire che anche il lavoro che facciamo quotidianamente in palestra dà dei frutti. Noi siamo riusciti in questi 10 giorni ad allenarci tutti insieme e i risultati si sono visti, così come contro Varese si era vista una grande partita di grandissimo livello, oggi abbiamo ripetuto una grande partita battendo una squadra in salute, battendo una squadra che aveva fiducia, ribaltando il risultato dell'andata che ad oggi non ha un grande significato perché l'abbiamo ancora distante, però in una corsa lunga come quella che è prevedibile in questo rush finale di campionato potrebbe essere un contributo importante. E i margini di miglioramento ci sono assolutamente per la Citygas? Assolutamente sì, perché appunto questo nuovo gruppo, l'allenatore nuovo, 2 giocatori nuovi, 2 che se ne sono andati, hanno bisogno di lavorare insieme, ma anche il vissuto a questa squadra insieme, e lo si vede appunto delle volte in partita quando nei momenti non abbiamo la continuità che si acquisisce quando lavori tutti insieme, cioè febbraio è un mese in cui dovresti giocare, noi invece stiamo cercando di memorizzare le nostre cose, per cui abbiamo un grande margine di miglioramento, dobbiamo però viverlo nella concretezza, dobbiamo fare un bignami come a scuola, perché questo ci deve permettere di essere reali nel momento in cui le partite come adesso contano tantissimo. Grazie a Cesare Pancotto, coach della Citygas. Dario, solo per dirti che Lyndon Johnson si è infortunato nel secondo periodo e nelle prossime ore ci sarà una risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio al ginocchio. A te. Grazie Carmelo Prestisimone da Avellino. Subito col nostro Stefano Valenti, ben ritrovato. Varese-Bologna, capolista che direi ha assorbito la delusione di questa finale di Coppa Italia sfumata e soprattutto giocata in quel modo, no Stefano? Eccolo Stefano, dove sei? Niente, è sparito nell'etere. Intanto, mentre lo recuperiamo, proviamo a dare un'occhiata a chi invece questa crisi post Final Eight non l'ha affatto superata, e che è Cantù, no? Che abbiamo detto caduta a Brindisi 69-65, decisivo direi l'ultimo periodo, 21-13 il parziale per quanto riguarda i pugliesi. Nel tabellino 29 punti di Jonathan Gibson con 8 su 14 da 2, 3 su 7 da 3, 4 su 5 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 3 recuperi per 32 di valutazione, 11 di Simmons che aggiunge anche 4 rimbalzi, e poi ci sono anche 8 punti di Indoja che rientrava. E per quanto riguarda invece Cantù non bastano i 14 punti di Jonathan Tabu, 2 su 4 da 2 3 su 9 da 3 punti, i 13 di Pietro Aradori e i 10 con appena due rimbalzi però di Cousin. Cantù che pure vince il confronto sotto canestro, 32 a 30 nei rimbalzi. Brindisi che addirittura tira con un pessimo 57% i tiri liberi, però tant'è che gli uomini di coach Bucchi piazzano quest'altro bel successo, e Cantù adesso sta a interrogarsi sul proprio futuro e anche su Mancini, che scrive 0 punti in 20 minuti di gioco, 0 su 2 da 2, 0 su 1 da 3, 3 rimbalzi, una palla persa e meno 1 di valutazione. Allora, Stefano Valenti, ti abbiamo ritrovato, Stefano? Sono qua, sì, ciao, buonasera. Eccolo qua Stefano. Dicevamo, una Varese che ha assorbito nel migliore dei modi la delusione della finaletta di Coppa Italia, non solo per il risultato, ma per il modo in cui quella sconfitta è arrivata una settimana fa al Forum, no? Sì, senza dubbio. Oggi ospitava Bologna, che non è certo in una stagione di quelle da ricordare nell'Albo d'Oro, è arrivata l'ottava sconfitta nelle ultime 9 partite. Varese non era al meglio perché aveva qualche problema fisico con Banks e Tals, però ha aggredito subito la partita, più 14 in avvio. La partita di fatto c'è stata solo nel terzo quarto, quando nei minuti che sono andati dal 22esimo al 30esimo, Bologna ha messo un parziale 19-2, risalendo dal meno 18 al meno 1. Poi Varese ha risposto nell'ultimo quarto 20-4, la partita si è chiusa lì sull'asse Green Dunston è stato assolutamente il migliore in campo, il giocatore che ha dominato la partita contro una Bologna che magari è una battuta, ma se non ci fossero retrocessioni come in Lega 2, beh, insomma, domani Hasbrook e Smith potrebbero essere serenamente lasciati a casa con risoluzione del contratto, per giusta causa, tra l'altro. Certo, e sarebbe anche a questo punto un bel risparmio. Ma a proposito di soldi, continuano a scricchiolare i conti di parecchie società del campionato, da Caserta a Biella, ad Avellino. Non sappiamo cosa sarà per esempio del futuro di Cremona, malgrado il forte impegno di quest'anno, eccetera eccetera. Difficile trovare soluzioni nell'immediato, ma sul medio termine invece il blocco delle retrocessioni porterebbe secondo te qualche aiuto? Non lo so, sta sperimentando la pallavolo, è un discorso sempre molto complesso e delicato. Sicuramente non lo si può decidere in corsa, cosa che pure è stato cercato di fare, devo dire, in maniera abbastanza scriteriata, a mio giudizio. Le regole con le quali si inizia un campionato devono essere le stesse fino in fondo. Poi eventualmente va valutata la logica del blocco delle retrocessioni, che potrebbe avere una valenza nell'utilizzo dei giocatori italiani, ma chiaramente deve essere fatto in anticipo, immagino quest'estate, ma ovviamente per il campionato non il prossimo in arrivo, ma quello a seguire. Non dobbiamo stupirci di queste difficoltà dei club, perché la crisi economica è la crisi del paese, non è la crisi del basket. La crisi economica è quella degli sponsor, che in questo campionato vanno e vengono, come nel caso di Cantù. Quindi, insomma, come dire, era impensabile che il basket fosse esente da tutte queste problematiche. Poi, a mio giudizio, è altrettanto vero che forse qualche gestione un po' troppo allegra, un po' troppo ottimista, poi in un momento, certo, come questo, in una contingenza così complessa, ha reso un po' più il doppio di quello che potrebbe essere accaduto magari in passato, quando i tempi non erano così grandi. Palla spicchi. Allora, subito i risultati della Lega 2, quarta giornata di ritorno: Forlì Ferentino 102 a 97, Jesi Imola 87 a 64, Barcellona Verona 74 a 73, 91 a 87 per Casale Monferrato su Brescia, Veroli Capo d'Orlando 90 a 66, Scafati Trieste 76 a 69, 65 a 60 per la capolista Pistoia su Bologna, riposava Trento per una classifica che vede in testa Pistoia a quota 26, davanti a Barcellona, Casale, Monferrato 24 e Brescia a quota 22. Allora, andiamo subito in fase di commento, perché mentre Roma adesso meno 10, Milano 40, Roma 30 al Palazzo dello Sport di Viale Tiziano a 1 e 35 dall'intervallo lungo. Carlo Genta, buonasera, sempre affascinante la sfida metropolitana. Sì, è una bella partita, ma poi è una partita anche importante, perché sappiamo come In America dopo lo Star Game si comincia a capire qualcosa nelle gerarchie delle squadre, si comincia a capire chi c'è e chi non c'è. Lo stesso vale un po' in Italia dopo la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, dalla quale Milano è uscita distrutta. Roma invece è uscita testa alta, è una delle squadre più interessanti di questo campionato. Adesso si tratta di vedere Milano che cosa riesce a costruire o a ricostruire, visto che ha cambiato moltissimo, Dario. Ecco, intanto Fozzis sbaglia una tripla, ma quella precedente l'aveva segnata. Beh, certo, allo spettacolo manca Gigi Datome e non è sottrazione in questo caso da poco, no? No, è uno dei migliori giocatori del campionato, se non forse il migliore italiano del campionato insieme da NBA, Carlo, perché hai visto nei giorni delle Final Eight se ne è parlato, Boston, secondo te è già pronto, già maturo? Ma secondo me è un giocatore che va benissimo in Europa, va benissimo per questi palcoscenici. Nell'NBA farebbe lo specialista, mentre è un giocatore che sa fare bene molte cose. Poi mi piace comunque vedere un giocatore italiano, un leader di una squadra che sta andando molto bene, leader di una squadra che in estate non c'era più. Quindi, sai, secondo me l'NBA alla fine è un discorso secondario. Datome può diventare un giocatore importante a livello europeo e questo sarebbe già tantissimo. A quel punto, se gli capita una chance e vuole provare un'esperienza, perché no? Però, ti ripeto, mi piacerebbe vederlo grande in Europa, con una maglia di Roma, con un'altra maglia, certamente con la maglia della nazionale, così come Hackett. O magari anche con la maglia di un'altra big europea, perché insomma far bene al Panathinaikos piuttosto che al Barcellona o al Maccabi fa sempre curriculum. Senti, crisi di Cantù, una Cantù che abbiamo vista sconfitta male da Roma nelle Final Eight, adesso scivola a Brindisi, per carità, avversario di tutto rispetto, ma sembra che quella chimica su cui Trinchieri ha sempre costruito il gruppo si sia in qualche modo alterata. Sì. A Cantù si è spezzato qualcosa, non voglio essere catastrofista da questo punto di vista, ma mi sembra che questo ciclo meraviglioso sia un po' agli sgoccioli, sia come guida tecnica, perché è bravissimo, adesso nella nazionale greca eccetera eccetera, però mi sembra che certi equilibri si siano rotti al di là della partenza di Marco Svili. Non è tanto quello, sai che le squadre si reggono. Squadre così si reggono su una specie di magia, tutti ci devono credere, tutti riescono a fare di più, ed è stato il vero motivo della Cantù degli ultimi anni, il vero leitmotiv della Cantù degli ultimi anni: riescono a fare qualcosa di più rispetto a quello che è nelle loro possibilità. Cantù era e forse può essere ancora una squadra meravigliosa, però ripeto, com'è fisiologico, mi sembra che questo ciclo, questa squadra, questa chimica si stia un po' esaurendo al di là dei cambiamenti che sono stati fatti, ma che sono alla fine abbastanza fisiologici, Dario. E allora, Carlo, grazie mille. Carlo Genta, domani alle 14 siamo tutti convocati da te, come d'abitudine, come appuntamento da non perdere, così come da non perdere l'occasione per salutare ancora una volta Flavio Tranquillo. Ben ritrovato, Flavio. Buonasera. Sforzo doppio, perché ti vedo impegnato nel commento dello Star Game da Houston in tutte le salse, e quindi immagino già termos di caffè, sarei arrivato già al secondo e il terzo, credo. Esatto. Finora cosa ha detto questo fine settimana? Che si sa, è una festa, per carità, però qualcosa i protagonisti dicono sempre, soprattutto quando poi c'è da festeggiare il mezzo secolo di Michael Jordan, no? Senz'altro ci sono motivi anche di interesse, però appunto è una festa e si vive più di episodi e di sensazioni. La sensazione più forte è che proprio nel 50° compleanno di Michael Jordan il mondo NBA mi sembra stia definitivamente passando nelle mani di LeBron James, indipendentemente dal risultato ovviamente dello Star Game, ma anche della stessa stagione. Eh sì, insomma, c'è un passaggio di consegne. Ma ho visto Michael che in questi giorni ha fatto una specie di rating, no? Oltre a dire Kobe, secondo me, avendo vinto più titoli, è più forte di LeBron, e considerando il discorso imparagonabile, però ne ha scelti pochi di quelli attuali, tra quelli di oggi, che avrebbe inserito, no, nell'NBA dei suoi tempi. Nowitzki, Bryant e pochi altri, insomma. Ma aspettavo qualche nome in più. Tu sei rimasto sorpreso? Ma seriamente è impossibile fare paragoni tra le ere, non solo perché è impossibile intrinsecamente, ma perché le ere sono troppo diverse, il gioco è diverso, la preparazione è diversa, le condizioni logistiche sono diverse, è proprio impossibile nella maniera più assoluta. Sono tutti giochini divertenti. E l'NBA di oggi è senz'altro criticabile per certi versi, però il livello di sofisticazione è talmente elevato che paragonarla a quella di ieri e ancora di più dell'altro ieri è proprio impossibile. Eh sì, ancora quella di Michael Jordan era abbastanza casareccia rispetto a quella di oggi, dai, concedimi il termine. Tutt'altri problemi sono quelli che abbiamo da questa sponda dell'oceano, ne parlavamo già con Stefano Valenti, conti che non tornano per molte società. Flavio, a questo punto direi motivi di preoccupazioni più che concreti per il prossimo campionato. Sarà un'estate bollente, direi primo argomento in agenda per il presidente Petrucci, no? Sì, anche se onestamente io non riesco a capire particolarmente bene o particolarmente facilmente che cosa e come il presidente Petrucci o la FIP o un'istituzione possa fare da questo punto di vista, nel senso che dubito che siano in grado di stanziare direttamente dei fondi per le risorse, soprattutto spero che questo non sia il caso. Quindi il fatto è cambiare il modello di business o il non modello di business dello sport italiano e della pallacanestro in questo caso, e quello non penso che sia un compito possibile prima ancora che raggiungibile da parte di una federazione. Eh sì, insomma, aspettiamoci grandi tavoli di concertazione, ma poi il business lo fanno gli imprenditori seri, responsabili, e che sanno programmare almeno sul medio periodo, no Flavio, da quello che mi dici? Ma secondo me il business si fa investendo 10 e facendo tornare più di 10. La prima parte mi sembra proibitiva e quindi la seconda è ancora più proibitiva. Intanto bisogna arrivare alla prima, ma perché si arrivi alla prima bisogna che la seconda sia possibile, cosa che al momento non è. Quindi o si esce da questo tipo di problema oppure mi sembra che siamo qui semplicemente a vedere e aspettare che quelle 2, 3, 4, 5 squadre che denunciano pubblicamente le difficoltà che tutti hanno diventino 10 o 15 o 20. Beh, speriamo di no, speriamo che i conti comincino a tornare insieme anche a un altro modello per sviluppare il nostro basket. Grazie Flavio, ci ritroviamo domenica prossima, sempre qui a Palla Spicchi. Volentieri. Grazie, grazie a Flavio Tranquillo. Torniamo a Roma perché è finito il primo tempo di Roma-Milano. Fabrizio Fabbri. Sì, la notizia è che abbiamo una partita di pallacanestro quando sembrava che potesse essere in realtà un monologo, perché nella seconda frazione l'asse Taylor Lavalle si è risvegliata e punto dopo punto, quasi senza accorgersene, Roma è addirittura arrivata sul meno 4 al 16:40, quando proprio Lavalle ha raccolto l'ennesimo assist del playmaker ex Wisconsin per portare Roma sul 28-32. Provate ad indovinare un po' chi è stato per Milano che ha tolto le castagne dal fuoco. Fotsis. Ovviamente il greco. Sempre Antonio Fotsis, l'ospite meno atteso, e io credo che il presidente Toti in parterre stia maledicendo il mancato approdo al Panathinaikos del giocatore, perché due triple sue, una di Langford e di nuovo risultato fissato sul più 13 per Milano alla chiusura del secondo quarto, 30-43, ma questo sta a significare che è un quarto in assoluta parità, perché si era chiuso sempre sul più 13 per Milano, ma in questo caso sul 10-23 i primi 10 minuti. Infatti c'è una partita, c'è un grande Fotsis, 15 punti nel primo tempo, ma c'è anche Roma. Grazie a Fabrizio Fabbri, grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Palla Spicchi finisce qua, io rimango a farvi un po' di compagnia con gli aggiornamenti dello sport della domenica di Radio 24.